Bene, alle 18.40 siamo in collegamento con Francesco Storace. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Eccoci qui, Storace. La domanda è subito e diretta. Secondo lei, mettiamo che Fini, come pare ormai sicuro, si decida a fare i gruppi autonomi sia alla Camera che al Senato e dunque, secondo quello che ha detto Berlusconi, esce dal PDL. Può rimanere a fare il Presidente della Camera? Ma guardi, se Fini fa i gruppi, credo che si sarà posto pure il problema se può fare o meno il Presidente della Camera, e francamente a me interessa meno di niente questo. Questo so che a lei non interessa poco, però insomma. Rispetto alla vostra domanda, però credo che ci sia un dato: se Fini fa i gruppi autonomi si precipita alle elezioni anticipate. Quanto dura far Presidente della Camera, insomma? Non mi pare che ci sia l'aria. Lei è sicuro che se fa i gruppi autonomi si va alle elezioni anticipate? Ma scusi, i gruppi autonomi si fanno per contare, no? Sì, certo. Per influenzare il governo. Sì. E in una situazione di rancore che sarebbe evidente, guardi, l'abbiamo vissuta già noi questa storia. La destra, quando nacque, sì, determinò la caduta del governo Prodi. Era uno dei tre senatori che lo buttarono giù. Non solo quello. Dalle elezioni Fini, sì, che allora non chiedeva democrazia interna, ma praticava il dispotismo assoluto con il diritto di veto in coalizione, prese la nostra esclusione. Quindi, insomma, la storia, diciamo, è vittima della legge del contrappasso. Senta, Storace, io mi sono fatto un'idea in queste ore. Ho pensato alle dimissioni, una cosa piccola per carità, però significativa secondo me. Ho pensato alle dimissioni di Francesco Rutelli dalla presidenza del Copasir. All'italiano non gli frega nulla, era la commissione che sovrintende i servizi, sì, segreti. Rutelli, uscito dal Partito Democratico, non è che lo obbligava qualcuno a dimettersi da Copasir, però si è dimesso da Copasir perché chiaramente il Partito Democratico lo pretendeva, non essendo più espressione del Partito Democratico. Qui si arriva ad una situazione persino paradossale. Se Fini dovesse uscire dal PDL fondando i suoi gruppi, lui dice di non uscire, però insomma Berlusconi dice che invece esce. Mettiamo che esce dal PDL, lui è eletto Presidente della Camera con i soli voti della maggioranza e sarebbe Presidente della Camera rappresentativo né della maggioranza né dell'opposizione che non l'ha votato, forse solo dei suoi. Beh, ma guardi, lui fa un po' il furbetto, è vero il paragone con Rutelli che si è dimesso da Copasir, però insomma cominciamo a dire che tra una commissione parlamentare, ancorché importante, e la Presidenza della Camera c'è una piccola differenza. Certo, no, c'è la differenza. Parliamo di cariche dello Stato. Certo. Però Fini non dice che lui esce dalla maggioranza. Sì, questo anzi, è vero. Dice che Berlusconi deve durare tutta la legislatura. Non dice quanto deve durare la legislatura, però. Quindi sono tutti schetti, no? La realtà è che Fini deve capire solo una cosa e definitivamente. Che deve capire? A lui nessuno gli ha imposto di fondare il PDL. C'aveva un partito. Oggi si capisce perché uscimmo noi da Enne, perché avevamo capito qual era la prospettiva. Lui entra nel PDL e comincia a picconarlo dal giorno dopo le elezioni, dopo essersi preso la presidenza della Camera, non un sottosegretariato, non lo strapuntino, parlando di una carica importantissima. E come io mi chiedo, come si fa a contestare dall'interno del partito che nessuno ha imposto a Fini il leader che vince senza la sua lista alle regioni del Lazio? No, basta vedere i dati. Berlusconi ha vinto senza la propria lista, cioè il PDL è lui, a prescindere se la lista non c'è o non c'è. Come si fa a contestare il leader del suo partito in queste condizioni